Con Isabella Russinova, curatrice della seconda edizione del Thematic Exhibition on Human Rights, dal titolo Tra guerra e pace, che prevede incontri, teatro, cinema e musica in vari luoghi di Roma dal 27 novembre al 20 dicembre. Isabel, ben trovata. Buonasera, buonasera, grazie. Ci sono stati i primi due incontri con Amnesty International e un reading, però adesso mancano ancora degli appuntamenti di teatro, di musica e di cinema, giusto? Sì, esattamente, i primi due appuntamenti all'interno di Roma 3. 27 e il 28 mi hanno dato una grande felicità, una grande soddisfazione perché c'è stata l'adesione dei ragazzi che avevano i crediti formativi per gli incontri e che hanno accolto con grande favore, curiosità e le opportunità dei due incontri con Amnesty International, il suo presidente e Antonio Marchesi. Riccardo Nuari, la portavoce di Amnesty, Lia Levi, scrittrice Premio Strega 2018, Strega Giovane 2018 e Dario Fertiglio che ha presentato un suo testo inedito. Il 5 invece di dicembre alle 20:30 al Teatro Palladium in scena la viaggiatrice con le ali, che è un omaggio ad Orhan Pamukcu, che tra l'altro quest'anno ricorre il suo anniversario dalla nascita, i suoi 270 anni dalla nascita di Olympe de Gouges, grande eroina della Rivoluzione francese che si è battuta per i diritti della donna e ha scritto la Carta dei diritti della donna della cittadina. Allora, ci racconti un po' com'è nato questo insieme di eventi? Nasce dalla mia urgenza di sensibilizzare soprattutto i giovani, ma l'opinione pubblica in generale, tutti noi, a quelli che sono le tematiche appunto rivolte ai diritti violati, ai diritti umani, che ritengo che sia molto importante conoscere, sapere, essere diciamo dentro a quello che è uno degli aspetti più importanti per la crescita, la civiltà e l'umanità. E mi piace poterli raccontare attraverso le arti, perché sicuramente ritengo che siano gli strumenti e i veicoli più incisivi, interessanti per poter coinvolgere la fascinazione e l'emozione delle persone. Sì. Allora, siamo alla seconda edizione, un bilancio della prima. Allora, gli appuntamenti stanno crescendo, la prima edizione è stata comunque seguita, ha avuto un esito positivo, ci sono stati dei momenti molto belli, molto alti, ricordo l'opera di Bacalov dedicata alle madri di Piazza de Majo alla Sala Accademica di Santa Cecilia, che è stato un momento altissimo di grande impatto diciamo emotivo, ma anche ha sortito proprio l'effetto che ho sempre desiderato, cioè quello di stimolare l'interesse coinvolgendo il pubblico appunto in rappresentazioni artistiche di grande bellezza. Questa seconda edizione, come ho detto, è già partita molto bene. E il titolo è I Tra miei guerra e pace. partner, abbiamo l'entrata anche di un altro partner, oltre a quelle dell'anno scorso, che sono l'Università Roma 3, Amnesty International naturalmente, il RIF, il Roma Independent Film Festival, la Cineteca Nazionale, il Cinema Trevi. Il Conservatorio di Santa Cecilia e da quest'anno c'è anche l'ASCA, Agenzia Giornalistica, che è partner e segue gli appuntamenti e crede in questo progetto che spero di anno in anno possa crescere e ottenere, diciamo, i risultati che mi prefiggo. Il titolo di quest'anno è Tra guerra e pace. Sì. tra guerre e pace. Tra guerre e pace. Tra guerre e pace, sì, naturalmente così si guarda al grande romanzo che purtroppo, però purtroppo vuole come dire, porre l'attenzione al momento storico che stiamo vivendo, che è delicatissimo, appunto, tra guerre e pace. Il pensiero di non dimenticare mai che la pace è sempre in pericolo, quindi non dobbiamo mai abbassare la guardia e pensare di essere al sicuro, anche se per fortuna noi e le nostre generazioni hanno vissuto tanti anni di pace e di crescita. E in questo le donne hanno un peso rilevante. Assolutamente, assolutamente. Infatti da più parti sento nominare proprio la grandezza della donna come forza per questo terzo millennio che è cominciato diciamo in maniera abbastanza turbolenta, ma appunto la donna e i giovani hanno questa devono avere questa grande capacità di mantenere l'equilibrio e tenere e salvaguardare, diciamo, la pace dell'umanità. Allora ricordiamo questo non sia certo compito facile, dato che è proprio nell'indole dell'uomo, purtroppo, questo continuo rincorrere tra bene e male. Allora ricordiamo la seconda edizione del Thematic Exhibition on Human Rights, dal titolo Tra guerra e pace, con incontri, teatro, musica e cinema a Roma dal 27 novembre al 20 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Isabel Russinova. Isabel, in chiusura ci lascia anche tutti i riferimenti web per la programmazione? Allora, sicuramente potete vederlo sul sito di Ars Millennia Production, che diciamo ha promosso tutte le iniziative, e lo si può trovare su www.millennia.production. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie.